Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Le scuole erano fatte in modo che i maestri seguissero i ragazzi dalla prima alla terza. Un altro maestro le rilevava per la quarta e per la quinta, ma per una certa successione dei tempi il secondo maestro era determinato dal primo, e così chi andava in prima col maestro Mossa trovava in quarta il maestro Fadda, chi andava col maestro Manca, detto Peduzza, trovava il maestro Piras, e così via. Ciò non è senza importanza, perché la pedagogia non aveva ancora fatto i progressi che oggi vediamo, non era nemmeno una scienza, come a dire che ogni maestro si faceva una pedagogia per conto suo, seppur non si portava appresso la sua pedagogia dalla nascita. Lo stesso valeva del resto anche per i ragazzi, che erano ricettivi solo a quel che volevano o a quello per cui erano nati. E il risultato era che tra maestro e scolaro si stabiliva un rapporto umano, cosa giustamente condannata dalle moderne dottrine, che nella metafisica dello Stato o della società non potrebbero ammettere, ad esempio, che maestro Mossa cominciasse il suo insegnamento nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e maestro Manca tessesse le lodi del vino che già dal mattino gli impregnava le vene, o maestro Murru si sfogasse coi ragazzi contro la moglie che gli rendeva la vita difficile per le modeste risorse. Tutti sapevano, anche perché si appostavano negli angoli intorno, che quando usciva per andare al convento dopo le prime baruffe del mattino si voltava indietro e le gridava dalla soglia come lanciando la freccia del parto: «Ciuffettina!». Lo stesso del resto valeva per i ragazzi, perché ognuno, povero o ricco, recava in classe il suo mondo particolare che lo faceva essere lui. E l'ammaestramento era l'esperienza di due persone che si fronteggiavano, di due vite che si mostravano l'una all'altra tra la matematica, l'italiano, la storia. La scuola che ne veniva fuori era la più variopinta che si potesse immaginare. Maestro Mossa aveva la statura piccola dei sardi, ma la nascondeva nella magrezza del corpo, rimasto asciutto e nervoso a dispetto dei 50 anni suonati. Aveva barba e baffi bianchi che crescevano incolti, ma puliti e ordinati, attorno a una bocca tranquilla, nella quale non erano mai entrati né fumo né vino e dalla quale non erano uscite che buone parole. Non era nuorese, era di un paesuccio del Logudoro, di cui aveva mantenuto la parlata, che a scuola lo rendeva un poco ridicolo, ed era figliolo di contadini. Diventato maestro, aveva naturalmente lasciato il costume dei padri, ma aveva conservato la fede in Dio, che poggiava su un argomento molto semplice, e cioè che un giorno era nato e un giorno doveva morire. Ed è in fondo, a ben guardare, l'unica prova ineccepibile dell'esistenza di Dio. A meno che l'obiezione non sia data dal concreto vivere, ma questa era una cosa troppo difficile per lui, o implicava un giudizio di sé e degli altri che egli non poteva dare. Era la stessa fede e la stessa ragione che lo guidava nella sua opera di maestro, che gli impediva di accorgersi che lo stipendio era miserabile, perché è la vita che deve adeguarsi allo stipendio e non lo stipendio alla vita. Del resto, nei giorni delle grandi feste, i genitori dei ragazzi ricchi non mancavano di fargli avere una fetta di maiale o un quarto di agnello che rallegrava la sua famiglia, perché egli si era sposato con una buona donna e aveva messo al mondo due figliuoli. Nell'aula che era stata la chiesa, o il refettorio, o il parlatoio dei frati, non importa, passavano davanti al piccolo maestro le generazioni dei nuoresi, e molti dei ragazzi di oggi erano i figli dei ragazzi di ieri. Anche i suoi figli erano cresciuti, ma il miracolo che lo aveva strappato alla terra non si era rinnovato, perché non erano molto intelligenti e occorreva che egli trovasse loro un lavoro, cosa non facile, che agitava la moglie e angustiava la sua vita, perché un padre deve pensare prima ai suoi figli che a quelli degli altri. Così diceva quella povera donna, quando al mattino varcava il portale e iniziava la sua discesa al convento col rotolante seguito dei ragazzi. Aveva ragione, aveva torto, ma c'erano le 80 lire al mese di stipendio e queste certamente le davano torto, anche se non aveva il coraggio di dirglielo apertamente per evitare discussioni, la cosa di cui aveva paura, come del peccato. Tante volte gli veniva la tentazione di chiedere aiuto per i figli a uno dei suoi antichi allievi, che era diventato un avvocato importante, ma sentiva oscuramente che ciò avrebbe reso più misera la sua misera vita. In definitiva, perché non dovevano mettersi a posto? Ci campano gli uccellini del cielo e non ci camperemo noi, si diceva come in una eco dell'antico legame con la terra, mentre allungava i passi, costringendo i ragazzi a correre per tenergli dietro. A scuola la preghiera comune univa per un istante maestro e ragazzi come in un coro, e la parola di Dio filtrava attraverso la porta nell'atrio pieno di altri scolari che attendevano schiamazzando il loro maestro. Ci voleva un buon quarto d'ora prima che tutti fossero al loro posto e si stabilisse quel misterioso silenzio che si forma negli anditi della scuola quando tutti sono intenti al loro lavoro. Era l'ora in cui zio Longu, il bidello, lavorava anche lui, cioè teneva gli occhi aperti se mai qualche ragazzo si attardasse troppo nel gabinetto o si infuriava con quei poltroni che il maestro aveva cacciato fuori dalla classe. Quel giorno maestro Mossa aveva cominciato a parlare dei re di Roma, che erano 7, ed era arrivato a Tarquinio il Superbo. Era una storia vecchia che ripeteva da 20 anni, ma era sempre nuova, perché nuove erano le creature che l'ascoltavano, e d'altra parte egli non ne sapeva e non doveva saperne niente di più. Gli occhi dei ragazzi sfavillavano, specie quelli dei primi banchi, che erano bambini di élite, poiché la selezione degli uomini avviene spontaneamente fin dalla scuola elementare e la superbia di Tarquinio diventava per loro un fatto morale. «Pietro Catte», chiese allora maestro Mossa, «dimmi chi era l'ultimo re di Roma». Pietro Catte, che aveva le labbra tumide da mauritano e un occhio bovino che se ne andava per conto suo, si alzò da uno degli ultimi banchi e disse «Il Quirinale». Fu naturalmente una grande risata nei primi banchi, ma maestro Mossa non sapeva ridere e, afferrata la nuca del ragazzo, piegò a sé le spalle e gli diede una buona nerbata. Poi, ritrovato il suo linguaggio sardo, gli comandò di tornarsene ai campi da dove era venuto e intanto saltasse rapidamente la porta. Pietro Catte, abituato a queste cose, saltò la porta volentieri e cadde nelle braccia di zio Longu, che aveva orecchiato alla serratura. «Vergogna, vergogna», gli disse, «confondere i re di Roma coi colli e non sapere chi era Tarquinio il Superbo». Perché anche egli era un mezzo maestro, avendo imparato a leggere e a scrivere. E poi, Tarquinio il Superbo lo conoscevano tutti. La verità era che Pietro Catte, un ragazzo per modo di dire, perché quelli degli ultimi banchi avevano 10 e 12 anni, abitava in una casetta vicino alla sua, con una vecchia zia che non aveva altri al mondo che lui, e faceva dei regali a zio Longu per propiziarselo, come se il destino fosse nelle sue mani. Il nerbo di maestro Mossa non era altro che la riga piatta e millimetrata che la scuola forniva col calamaio e l'inchiostro, ed era tutto quello che forniva. Quell'uomo, che già si tingeva di bianco, era la persona più mite che si potesse immaginare. E come non essere mite con quel fragile corpo strappato all'aratro, con quell'anima che aveva corso e si può dire che correva ogni giorno l'avventura dell'alfabeto. Aveva creduto per un momento, quando cominciava a compitare, che si sarebbe aperta con lui una nuova era per la sua famiglia. Ma ora, guardando i figli che ripetevano le vecchie generazioni, per giunta impigriti dalla città, Capiva che la sua era stata una parentesi e presto si sarebbe chiusa. Ma non se ne lamentava. C'erano tutti questi ragazzi che lo aspettavano ogni mattina all'uscita di casa. Si vede che aveva studiato per loro, perché Dio glieli mettesse nelle mani, e pareva che essi lo sapessero. Egli ricambiava il loro infantile amore con il suo amore di maestro, che è un amore di mestiere. Li conosceva tutti uno per uno, più di quanto non si conoscessero essi stessi. Sapeva quali sarebbero tornati alla zappa, quali in pochi anni ne avrebbero saputo più di lui, e tra questi c'era ora l'ultimo figlio di Don Sebastiano, che pendeva dalle sue labbra e già gli parlava di Plutarco, ed egli doveva far finta di averlo letto per non perdere il prestigio. Ma in una cosa questi ragazzi erano tutti uguali, ed era nel peccato originale sul quale si fondava la sua pedagogia. La riga millimetrata procedeva di qui. Essa castigava Adamo ed Eva, che ancora esistevano. Il maestro era abilissimo nello scoprire le tracce del male primitivo. Lo fiutava persino nelle esalazioni di quei corpicini innocenti e si ergeva come un dio pedagogo e terribile quando svergognava qualcuno di fronte alla classe e gli gridava, accompagnando il grido con un colpo di riga: «Va a provvederti!» Così andava avanti maestro Mossa, senza accorgersi che andava avanti anche il mondo. E meno di lui se ne accorgeva nell'aula accanto maestro Manca, ma per ragioni diverse. Ed è che egli non andava diritto al convento, rotolando sul selciato quando usciva di casa al mattino, ma faceva il giro dei Milesos, così si chiamavano certe botteghe dove i mercantini di Milis, un paesino del Campidano, venivano nella stagione a ostendere pile luminose di aranci e botticelle della loro vernaccia, e quando varcava la soglia della scuola aveva già 4 o 5 bicchieri di vernaccia in corpo. Era un uomo piccolo, dagli occhi glauchi e la barba a punta, con la testa coronata da una tuba come si usava allora, e la pancia, che descriveva un perfetto cerchio sulle fragili gambette, gli aveva procurato, come mi pare di aver detto, il nome di Peduzza, Pietruzza, col quale è passato nella vita. Nell'entrare in classe sentiva l'artificio dell'euforia di cui pure aveva bisogno e provava un po' di soggezione verso quei ragazzini che lo guardavano incuriositi e non capivano, specie in principio, perché il Rubicone avesse la tendenza a diventare Buricone. Ma il maestro aveva il vino buono, come si dice, e questo, con l'andare dei giorni, accorciava le distanze e la lezione minacciava di finire in baldoria. Ma non tanto che il maestro, in un subitaneo risveglio della coscienza, non lanciasse un urlo e riportasse in primo piano, davanti ai ragazzi ammutoliti, Giulio Cesare e Augusto. Maestro Manca aveva questo vizio di bere, che del resto non era suo, ma di tutta la famiglia. Ed egli era il primo a soffrirne, tanto che nei lucidi intervalli si chiedeva da dove fosse venuta quella tara, e l'attribuiva alla madre, che diceva lui aveva il gusto del Fernet quando era incinta. Ma era un uomo buono ed era straordinariamente dotato, perché suonava la chitarra, componeva poesie amare e giocose nello stesso tempo e aveva un'incredibile abilità nel mimare la gente, che è poi la capacità di vedere l'essenza delle persone nei loro atti e gesti, tutte cose che lo distinguevano dagli altri beoni nuoresi, i quali erano legione. E poi era colto, cioè aveva fatto le scuole, ma quel che aveva preso di Omero, di Dante e degli altri era entrato a far parte della sua natura, così che per ognuno aveva il suo verso o il suo nomignolo classico, ed era come un modo di mimarlo anche questo. La sua disgrazia, diceva, era quella di aver sposato una continentale, e forse era vero, ma forse non doveva raccontarlo ai ragazzi che, secondo il turno scolastico, capitavano con lui. Maestro Mossa non l'avrebbe fatto, ma maestro Mossa non avrebbe fatto tante altre cose. Nella auletta del convento dove maestro Manca insegnava c'era un caminetto che l'ultimo frate aveva lasciato spento e nei rigidi inverni nuoresi si tremava dal freddo. Allora maestro Manca aveva escogitato una cosa semplicissima. Si era messo d'accordo coi ragazzi e ognuno doveva portare al mattino, nascosto sotto il loden che allora si usava, un pezzo di legno, ma che non lo dicesse a nessuno, neppure ai genitori. Arrivavano i ragazzi impettiti, compresi dell'opera segreta, e così il primo rito della scuola era quello di accendere il fuoco. Non vi provvedeva il maestro, perché le gambe e la pancia non gli consentivano di chinarsi, ma vi erano negli ultimi banchi figli di pastori, destinati a restare pastori, che di queste cose se ne intendevano. Così, mentre maestro Mossa moriva dal freddo e accettava di morire, Peduzza ronfava contento sulla sedia che dall'inutile cattedra aveva trasportato all'angolo del caminetto, mentre i ragazzi attorno attizzavano la fiamma. Gli accadeva così qualche volta di vedere come in un crepuscolo la moglie a cavallo di una botticella di vernaccia, ma subito si riscuoteva e, ridiventato padrone di sé, afferrava per il bavero il ragazzo più vicino al fuoco, gli rinfacciava la vita sua, dei genitori, dei nonni e lo spingeva con un calcio fuori della porta. Tornava paonazzo davanti alla scolaresca ammutolita e si metteva a parlare di geografia. I ragazzi si erano abituati a questi scoppi di collera e anzi si erano organizzati perché ciascuno ne fosse a turno la vittima. Essi avvertivano che il maestro, già ormai esposto ai lazzi di quegli ignoranti signori del caffè Tettamanzi, che pure lo ricercavano e lo facevano bere perché li divertiva, trovava in loro un rifugio. Li considerava i soli amici che avesse. Una mattina se lo videro arrivare con un grosso fagotto sotto il braccio, gli si strinsero intorno e ne uscì una chitarra. Si sedette come al solito al canto del focolare e piano piano, perché il direttore didattico, che poi era maestro Fadda, il maestro di quarta e di quinta, chiamato dai ragazzi Porsenna per la straordinaria rassomiglianza col re etrusco e figgiato nel libro di storia, pizzicò le corde. Ne veniva fuori un suono malinconico che ammansiva persino quelli dell'ultimo banco. Poi la voce del maestro intonò un canto in esaltazione del vino da lui composto nella notte, una parodia delle laudi di Gesù, che sarebbe stata blasfema se non fosse stata un pianto su se stesso, sulla miseria nella quale si sentiva precipitare. Benito sia suffrore frutto de puro sino, benedetto sia il fiore frutto di puro seno, diventava atrocemente nella parodia benito siat sacriore frutto de puro vino, benedetto sia il rutto frutto di puro vino. E nel ritornello si alternavano al posto di Gesù gli sterili personaggi della vita sregolata di Nuoro. Maestro Fadda spalancò la porta proprio nel momento in cui la voce di maestro Manca si faceva più grave. Era anche lui uno di quegli uomini che non ridevano mai, come Don Priamo, e differiva da maestro Mossa solo per due fatti ugualmente importanti. Insegnava nelle classi superiori e non credeva molto in Dio. La sua voce non aveva nulla di umano, era un belato, un rantolo di chi si sente soffocare. E anche gli occhi ruotavano per uscire dalle orbite. Egli, che non si scomponeva mai e faceva lezione col cappello duro in testa perché era calvo e sempre seduto alla cattedra. Benissimo, benissimo, si capì. Ce la vedremo nelle note. E scomparve. Maestro Manca era balzato in piedi terrorizzato. Non erano le note che gli importavano, perché sapeva che maestro Fadda era buono e alla resa dei conti non lo avrebbe rovinato. Era il terrore di trovarsi d'improvviso di fronte a un uomo che ragionava, non barcollava, non cantava. Depose la chitarra così vicino al fuoco che poco mancò non si bruciasse. Allora i ragazzi, e non soltanto i figli dei ricchi, di Don Pasqualino o di Don Sebastiano, ma anche quegli spilungoni degli ultimi banchi, già con qualche setola nel volto foruncoloso, corsero attorno al maestro, lo tirarono per la giacca, gli si aggrapparono alle ginocchia, vociando e cantando. Per poco non gli danzarono intorno al ventre. Il maestro piangeva.